chiedendo chiarificazione, quindi per favore tu ritorna, perché non è escluso che qualcuno ti dica che hai sbagliato tutto, no? E allora, allora ecco, allora chi vuol iniziare? Monsignor Sartori. C'è un... Più che essere domande, sono rivolte ai relatori, sono problemi che io porto con me perché questo convegno abbia la possibilità di darmi qualche orientamento. Sono quattro, le prime due sono meno interessanti, ci tengo soprattutto alle seconde due. La prima: anatemi, anatemi, condanne, con tutta la terminologia che abbiamo sentito non totalmente ripresa, se non guai, dai nostri due relatori, nella loro ferocia gravità. Ecco, la domanda fondamentale è questa: in che misura queste espressioni devono essere interpretate nel loro senso pieno? È stato sottolineato che i testi della tradizione, cioè le autorità della tradizione, sono molto più forti, per esempio per la Chiesa Cattolica, che non i testi simbolici evangelici. I testi simbolici evangelici sono di una Chiesa. Quelli a cui fa riferimento la Chiesa Cattolica sono i testi della Chiesa. Qual è questa la unica grande Chiesa che dà piena autorevolezza alla capacità di riconoscere o di anatemizzare? Allora inglobiamo in questo problema il problema che si offrono gli ortodossi. Da quando la Chiesa Cattolica e tutto l'Occidente si è separato dall'Oriente, ecco il grande problema. I pronunciamenti possono avere il valore di espressione della Chiesa o tutti sono ancora di una Chiesa, dentro la Chiesa? Ricordate la sollecitazione che Cardinal Willebrand faceva nella commemorazione del Concilio di Lione, dicendo che i concili d'Occidente dovrebbero chiamarsi d'ora in poi sinodi generali della Chiesa d'Occidente. Ecco un primo gruppo di riflessioni. Cioè vorrei non, diremmo, aggredire solo i singoli anatemi o anatemi, ma aggredire questa autorevolezza che nel secondo millennio è stata pesata, fatta pesare sopra le decisioni della Chiesa occidentale. Secondo, per me un grosso problema è quello della receptio, cioè è un problema generale dell'ecumenismo. Tutti questi dialoghi e anche questo monumento di quattro e più volumi a cui ci riferiamo oggi sono frutto di esperti, è stato detto mille volte, esperti che hanno vissuto in un dato clima di riconciliazione, ma ancora sono minoranze dentro la Chiesa. Minoranze però non solo in rapporto alla plebs, al popolo, ma anche in rapporto all'autorità. Ecco un'insistenza molto interessante sul tema dell'autorità. Cioè la fatica di oggi è di far recepire dall'autorità questi testi. E pare Verkreuz lo sa, io l'ho sperimentato. Sì, c'è il Consiglio Pontificio, ma la mia domanda è questa, vorrei fare anche a lei, questa qui è una domandina piccola. Questo documento del Consiglio Pontificio per l'ecumenismo è stato rivisto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede? Perché quando ero dentro io vedevo che la difficoltà era questa: noi facciamo questo testo, ma lo dobbiamo poi mandare ad altre istanze che non hanno una mentalità ecumenica. Come possono giudicare e casomai dare ufficialità e validità a un testo elaborato da esperti che sono entrati direi in una specifica mentalità, se non sono essi dentro, ecco un problema di recezione, dove vedo che la distanza è sì tra gli esperti, gli specialisti, questa minoranza di ecumenisti e il popolo di Dio, ma anche la distanza tra le istanze ufficiali a cui si fa appello per avere un'approvazione, una legittimazione. Terzo, e qui entro in un problema più delicato per me, cioè si fa presto, l'autorità lo dirà, ecco, qui si tratta di un nuovo metodo storico, un nuovo approccio alla Bibbia, un nuovo modo di considerare la storia, la tradizione, i concili, ma per me è ancora più radicale, è la mentalità veramente nuova che riguarda sostanzialmente la storicità, cioè riguarda una dimensione antropologica, i famosi principi, distinguere tra sostanza e rivestimento, ma con troppa facilità il rivestimento culturale viene detto linguaggio, ma allora dal tedesco all'italiano, cioè il linguaggio, il rivestimento culturale è un'incarnazione, implica tutta una vita, un uomo e la sua vicenda anche storica dentro un'etnia, dentro un linguaggio come vita, tanto più l'altro, distinguere la storicità intesa come appello alla diversità nell'unità. Io sono convinto che la grande problematica radicale è il valore della diversità per l'unità, il valore della diversità, anche l'ultimo testo preparato per Grazia insiste su questo, dalla diversità, la diversità come valore. Allora, questo non c'era probabilmente allora, nonostante quello che tu hai dimostrato di una tendenza, ecco, di vederci legittimi prima, vedere gli altri non come avversari, ma ormai il diverso dal punto di vista teologico e quindi si vede subito come diverso nella fede, allora una diversità ostile da buttare via. Ma io annuncerei una cosa ancora più tremenda, è un'idea, non so se qui c'è già Ruggeri. C'è già prenotato, ecco. Rispondere. No, la diversità oggi non è una diversità provvisoria, lui ha insistito sul vicolo cieco, ci sono dei limiti insuperabili quando si tratta di tradurre la fede in parole, in concetti, c'è una diversità insuperabile, cioè ci sarà una linea che ti obbligherà a restare in questo linguaggio, a intuire che l'altro ha un valore ma non puoi farlo tuo, ecco l'insuperabilità. Cioè è una questione antropologica dove si devono mettere in evidenza anche i limiti del linguaggio concettuale, delle parole della fede e dare più spazio all'azione dello spirito e diremmo in termini antropologici anche a quelle forze che molte correnti culturali e filosofiche hanno attribuito alla intuizione, anche un noi misterioso, archetipo che lavora dentro di noi, ecco la pietas, l'importanza della pietas di far parte, ecco questo era il terzo che non ho delineato bene. Quarto e ultimo, quindi tutto questo grava anche sul concetto di autorità, questa autorità che per forza se si trova dentro a una prospettiva antropologica per cui essa è fuori dalla storia, non è storica, essa sì un punto di riferimento che può dire io sono, voi dovete confrontarvi con me. Ma se l'autorità stessa, come dice il Lumen Gentium, anche i pastori devono studiare, devono sottoporsi alla Bibbia, devono cercare, devono convertirsi, eccetera, allora l'autorità non è, diremmo, già idolatrabile, assoluta, fuori dalla storia. Anch'essa è dentro una storia. Non è più il concetto di io mi trovo in uno stato di diritto di possessione, jus possessionis. Voi dovete casomai legittimarvi, voi dovete apparire come integrabile, eccetera. Ecco un discorso interessante che io penso che si dovrà affrontare, quindi sono più. Ma volevo fare una curiosità, padre, mi aveva privatamente detto che aveva due ideette da dire, non le ha dette, o sì? Sì, forse che lei non erano neanche ideette, che lei non le ha visto, che erano così piccoli. Non le ho viste. Può darsi che arrivino di nuovo verso la nuova storia. No, queste due ideette era di introdurre, diciamo, quell'idea di domandarsi se di fatto quel concetto di contumazia è da riconciliare con la quel problema della Kirchentrennung attuale, no? Se diciamo che viviamo in una comunità che cerca l'unione, si può ancora parlare di contumacia. Io direi quella contumacia non c'è più, c'è una differenza così profonda, sì, che non si può così risolvere in uno, due, tre punti, no? Ma non si può più parlare di contumacia, di pertinacia, perché questa è una categoria morale o immorale. Questa è il primo, la prima idea. E con l'impressione che in tutti questi testi non si riguarda quell'elemento di contumacia che sembra essere capitale per capire l'anatema. E la seconda idea era, se parliamo di Verbindlichkeit, del vincolare, ma non è mitica di parlare tanto di Verbindlichkeit come se le autorità al quale ci indirizziamo sono, si deve sempre essere prudente con la parola potere, perché potere può essere pure sono capace di, sono in grado di. No, perché se vogliono farlo devono rifarsi di nuovo ad esperti che sono altri esperti. E dunque come si deve capire quel concetto di vincolare e di dire ah no, adesso il Concilio di Trento non ha detto quello o quello, o è di dire bene, qualsiasi cosa che il Concilio abbia detto non è materia nostra di entrare e di dire storicamente quello o questo, ma la situazione ecumenica e la ricerca d'unità è talmente maturata, cambiata, che fermo restando qualche differenza, non di meno possiamo andare a cercare una comunione più profonda. Dunque, che cosa vuol dire quella parola rituale di dire voi dovete dare una parola vincolante? E che è una cosa molto strana, perché in tutti questi testi protestanti le critiche delle risposte di delle due parole dei vescovi tedeschi e del Concilio per l'Unità è sempre ma voi non si siete pronunciati in modo vincolante. Ma che è un, al mio parere un po' assurdo, perché se domandano una parola vincolante nel senso che Roma ama parlare in modo vincolante, ma se quella parola vincolante non piace a loro, allora non ha il diritto di parlare. Ma se dovrebbe piacere, allora aspettano una parola vincolante. Ed è quel punto che chiamo magico. Dunque usano vincolanza nel senso che noi l'usiamo e siamo reticenti per farlo perché vediamo la complessità, almeno in questa materia, forse non si vediamo sempre quella complessità, ma almeno vediamo talmente la complessità che diciamo sì, ma come si può? E dunque questa che cosa vuol dire quell'appello a vincolante? Sono queste due idee tecniche. Che erano già state dette, si vede che ti eri un po' distratto, le aveva già dette, si vede che ti eri un po' distratto, ma comunque ottimamente sottolineato. No, forse l'ho detto più chiaro. Il dibattito comunque vedete si è già avviato bene, ora Pino Ruggeri, che salutiamo intanto, lo continuerà. Ho ammirato molto la finezza delle conclusioni del padre Verkroysen, soprattutto quando si chiedeva cosa fare adesso del futuro e quando giustamente ha notato che in qualche modo quella di fare studi dopo studi, approfondire il passato è una via senza sbocco. E su questo punto che vorrei intervenire e chiedergli una cosa. Si connette un po' alla terza delle questioni suscitate da Don Sartori, e cioè ritiene lei che veramente sia il passato meglio conosciuto che possa generare il presente? In altri termini, E questi studi, questi approfondimenti che non avranno mai fine, ma potranno generare, ecco, la novità che poi sarebbe l'unione, eccetera. Io ritengo che intanto c'è, personalmente sono convinto, avendo letto anche in occasione appunto di tutta questa attività dell'Arbeitskreis, dei luterani e dei cattolici in Germania, che intanto alcune analisi del passato sono possibili perché appunto c'è in noi qualcosa di radicalmente nuovo rispetto al passato. Il passato, anche meglio conosciuto, domani ho visto lo schema, ascolteremo le precisazioni del padre Marranzini, tutto sui vari gradi di affermazione, eccetera, ma non è in grado di produrre un consenso nuovo, ritengo. Intanto possiamo produrre questo consenso nuovo perché c'è qualcosa di diverso che lo impone, adesso. Cioè il libretto già del padre Rahner e del padre Fries di una decina di anni fa, no? L'unione non attende un ulteriore consenso teologico, perché un ulteriore consenso teologico o è impossibile o non aggiunge nulla al consenso teologico già ottenuto dagli studiosi e dai teologi sostanzialmente. E allora, ecco, di fronte a tutto questo evento che ha impegnato tante energie, che ha prodotto degli studi, come ha detto il padre Verkreusen, così interessanti, di cui non si può fare a meno, non è che si possa fare a meno di questo approfondimento. Ecco, ma il senso di questo evento qual è? Dell'intervento, quello è l'intervento. Era un desiderio che lei approfondisse la sua conclusione, cioè là dove parlava. Ulteriori studi, intervento del magistero, eccetera. Realmente, cioè, questo è tale anche il consenso ricevuto da fare un passo avanti? A meno che non cambiamo completamente orizzonte, siamo coscienti di collocarci in un'epoca nuova della storia della Chiesa che ci permette di riprendere il passato, ma da adesso, non da allora, in modo radicalmente nuovo. E intanto abbiamo ascoltato probabilmente l'orizzonte nuovo che domani Ruggeri ci aprirà. Il pastore Ferrario ha chiesto la parola. Molto brevemente, anch'io ho trovato illuminanti le conclusioni del professor Verkreus sul rituale appello al pronunciamento vincolante. Nel senso, ho trovato illuminante, cioè, questa sua problematizzazione di tale appello, così come ad esempio si presenta nel documento Lehrverurteilung. D'altra parte, vorrei anche, appunto, dal punto di vista dell'interlocutore, vorrei difendere l'esigenza che a volte si avanza, in questo senso, molto banalmente, non magari a questi livelli scientifici o a livelli di trattative di gruppi di lavoro ecumenici, ma capita molto spesso, appunto, nel lavoro di base a cui alludeva Monsignor Sartori nel suo intervento, capita molto spesso a un evangelico di esporre una posizione che egli crede essere quella della Chiesa Cattolica, perché ad esempio l'ha letta in un'enciclica, e si sente dire, sì, vabbè, questa non è la posizione della Chiesa Cattolica, questa è la posizione del Papa. Come, voglio dire, se fosse un elemento del dibattito sullo stesso piano di quello del professore nel seminario di Acquiterme. Ecco, non è, mentre l'evangelico pensava che non fosse esattamente la stessa cosa. Questo, da un lato, è comprensibile, perché naturalmente il dibattito è in corso, ci sono molte voci a vari livelli, nessuno di questi... o non tutti questi livelli sono appunto sempre vincolanti, però a volte l'interlocutore vorrebbe sapere allora a quale posizione deve rifarsi per capire effettivamente quello che è il punto di vista. Non è, soprattutto a partire dalle osservazioni del padre Verkreus, non è sempre un problema da niente, e d'altra parte è indispensabile per poter appunto precisare anche la propria posizione. Dal nostro punto di vista, io non credo che la questione sia nei termini di dire da prima si vuole che Roma si pronunci in modo vincolante, poi quando lo fa non si è contenti. Non è questione di essere contenti o non contenti, è questione di avere presente il quadro. Dopodiché, se invece, come mi è sembrato in qualche modo di cogliere nelle conclusioni del padre Fercrois, il risultato del lavoro ecumenico fosse lo sviluppo di un metodo per cui effettivamente si deve rinunciare programmaticamente, metodologicamente, a questo tipo di interpretazioni vincolanti. Beh, certo, questo allora costituirebbe, così almeno capisco io, questo costituirebbe una modifica nel modo di porsi, nell'autocoscienza anche, se ben capisco, della Chiesa Cattolica in questo caso. Beh, certo, una modifica interessante che io personalmente saluterei con entusiasmo, ma su questo forse qualche ulteriore delucidazione. A me sembra un passaggio importante e anche molto promettente, ma da approfondire. Grazie di questo intervento. Che credo abbia aperto anche un altro tema, quello della univocità della coscienza cattolica. Comunque, vediamo se ci sono ancora altri interventi, in modo che poi possano... Ma possiamo, sì. Mi pare... Allora, come si può rispondere? Sì, perché si pone tanti problemi che non potrei neanche risolvere, e forse non è neanche il mio compito di risolvere, ma di, diciamo, di abusare qualche chiarificazione da parte mia e non riprenderò tutto. Sarei d'accordo pienamente con... il primo punto di Monsignor Sartori, benché ci pone naturalmente in un problema enorme, no? Quando andiamo a studiare l'ortodossia. Io penso talvolta che noi occidentali dovremmo già essere convinti che di fatto da secoli la Chiesa ha due prospettive totalmente diverse per esprimere la stessa fede. È vero che il dialogo dal quale noi ci occupiamo, di quello, il dialogo o la controversia dopo dialogo fra la Chiesa Cattolica, fra il cattolicesimo, che diciamolo onestamente, anche se ha due polmoni, respira particolarmente con quel latino, e deve essere ricordato che c'è l'altro, ma che è un po' deficiente l'altro, no? Dunque, che in linea di massima, se facciamo della teologia cosiddetta cattolica, scriviamo, presentiamo una teologia latina. Con quello che lei dice, analogicamente si potrebbe dire quello che si vende come il catechismo universale della Chiesa Cattolica è un catechismo latino, con qualche riferimento in qualche nota alla Chiesa orientale, ma di fatto i problemi sono quelli latini. Vai a spiegare all'orientale ciò che è il peccato originale. Dovrai elaborare un'altra teologia. E dunque questo è il problema, ma per il noi tutta la discussione dominato con il riferimento al protestantesimo è una discussione fra latini, fra occidentali, su temi che sono, direi, cardini della teologia latina, particolarmente la giustificazione del peccato originale, tutti questi problemi formulati in termini di... E dunque questo è vero, ma di fatto la nostra discussione, forse che questo che noi dobbiamo essere convinti è che è solo questa. Ma è che è questa, perché quando diciamo è solo questo allo stesso tempo, ma quello è. Dunque questo mi sembra un elemento, io non so se il Gutachten del Consiglio Pontificio sia stato letto al piano superiore, ma penso che facendo una piccola illazione si può certamente dire con certezza teologica, vuol dire senza avere teologici e certe, che quel testo non è stato pubblicato senza che sia stato letto previamente dal Cardinal Ratzinger, per la semplice ragione che lui era fra quelli che hanno preso l'iniziativa, e dunque che è difficilmente pensabile che si fa pubblicare un testo quando chi ha preso l'iniziativa vive non al piano superiore, perché, ma in un altro edificio, ma nella stessa strada o più o meno. Dunque, ma si deve dire, e questo è un problema che si considera, è un testo importante, ma questo è il problema per ognuno che oggi deve lavorare con testi della Santa Sede, quale è il suo livello. E lì naturalmente un testo di un livello estremamente basso, perché è un testo di fatto elaborato da un gruppo di teologi, un Gutachten, vuol dire che un Gutachten un parere di un gruppo internazionale di teologi, che è stato come tale ripreso dal Concilio Pontificio per l'unità dei cristiani, e dunque è un parere ricevuto e non pubblicato, ma comunicato a. Dunque questo, direi, fra tutti i testi, probabilmente più o meno dopo gli articoli dell'Osservatore Romano, il penultimo grado di ufficialità. Si può ancora dubitare degli articoli dell'Osservatore Romano, ma dunque, ma che sia stato letto prima, mi sembra che si può accettare senza difficoltà. Tutti gli altri, il terzo punto sulla storicità è un punto, la mentalità di storicità è un elemento estremamente importante, dal quale sono pienamente d'accordo con lei, e che alla fine siamo davanti diversità insuperabili, forse già fra Oriente ed Occidente, che lì è una certa insuperabilità di chi si deve accettare nella fede. Calvino ha una bella sentenza quando dice che noi dobbiamo credere nella fede degli altri, dunque che dobbiamo credere che l'altro crede, e questo è vero. Sì, il peso dell'autorità e la storia ha da fare con quell'affare del vincolante. Sì, quello che vorrei dire pure in questo riguardo al pastor Ferraro, il mio problema prima di tutto è che cosa si rappresenta chi domanda un parere vincolante. Che cosa si rappresenta? E talvolta ho l'impressione che rappresenta che, allora, diciamo, per prendere un esempio, il carattere sacrificale della messa, per esempio, per prendere un esempio concreto, che dunque si aspetta che qualcuno con autorità dica: il Concilio di Trento ha detto questo, ma da oggi in poi si deve capirlo in tale senso. È dunque una dichiarazione, come la Santa Sede pubblica talvolta delle dichiarazioni, e che dunque quello è al quale loro pensano come un affare vincolante. Allora il mio problema è possibile di che chi? Il Papa? Il segretariato per l'unità, la congregazione per la fede, il Papa dica che adesso si deve spiegare il Concilio di Trento in quel senso. È totalmente diverso della lettera del Concilio di Trento. Ma allora prendiamo al serio l'autorità del Concilio? Ed è quello il problema. E per dire questo non si può pubblicare solo una regola, come è stato fatto dalla congregazione. A quella domanda risposta sì o no. Non si può. Dunque si dovrebbe scrivere un trattato per spiegare che oggi si può, eccetera. Ma scrivendo il trattato vale quello che vale. Non sarebbe vincolante, perché ci sarebbe certamente qualche teologo che alza il dito per dire ma poi questo documento dice questo e quello, ma il Concilio di Trento non ha mai detto questo o quello, o quel teologo ha pensato questo, e dunque, ed è quello che non sono sicuro che vincolante abbia molto in quel senso senso. D'altra parte vedo una certa elemento di vincolante che vorrei piuttosto tradurre con la parola quello che si può aspettare della Chiesa e delle autorità della Chiesa che è che si impegnano in modo responsabile. E il vincolante vorrei dire che mostrano con fatti che prendono sul serio. E dunque che non mandano alla posta una lettera per dire l'abbiamo ricevuto, va bene, per il resto sei ringraziato, no? Per il resto non facciamo più niente, si pubblica testi come non si fosse mai stato questi accordi, come si pubblica un catechismo, come la Chiesa non abbia mai pubblicato una risposta su battesimo, eucaristia, ministero, e dunque che si dimentica. Dunque il test per me è che le autorità prendano sul serio quello che è stato iniziato sotto la loro protezione e che allo stesso tempo prendono sul serio la serietà dei documenti, delle cose fatte, nella fiducia e nel... Penso che questo sarebbe molto più credibile che solo un testo. L'altra parte, questo... con questo faccio pure riferimento a ciò che ha detto il collega Ruggeri. Io penso, al mio parere, che questi Lehrverurteilung, tutti questi dialoghi sono importanti, in questo siamo d'accordo, ma io penso e sono importanti ed inevitabili e necessari e tutto quello. Ma e l'ho detto, ma, e l'ho detto nel discorso, ma dicendo era una parola e nel testo stampato e l'ho scritto in italici, l'ho sottolineato, ma è che ha una funzione in un insieme. Quando si considera i dialoghi, anche le Lehrverurteilung, eccetera, isolatamente, come diciamo il cavallo di parata, il nec plus ultra, allora dico no, ma al suo livello, nel questo insieme, non si può far di meno di questo, come in un insieme di riconciliazione fra qualche famiglia si deve in un certo modo poter parlare di ciò che ha diviso, ma non per giudicare quello che ha diviso o per reinterpretarlo in tal modo, talvolta estremamente forzato, per dire ma quello che hanno detto i nostri antenati, quello che diciamo noi è la stessa cosa, che ognuno non vede bene che è la stessa cosa, ma va bene, sì sì è la stessa cosa, è la stessa intenzione, come non sapessimo l'intenzione di questi tizi di quel tempo. Dunque io vedo l'importanza di farlo, ma, e questo è molto importante, possiamo discutere di alcuni punti perché oggi non hanno più l'importanza che avevano in quel tempo. Chi lascerà questa notte di dormire a causa della dottrina della giustificazione? Solo chi domani ha da dare una conferenza su questo argomento e la conferenza non è ancora pronta, quello non dormirà, ma tutti gli altri... Ed è questo il punto. Questo non vuol dire che quella dottrina della giustificazione non abbia qualche cosa da dire che è importante per oggi. E quando si vede il riassunto che è dato in Lehrverurteilung di ciò che, sul quale siamo d'accordo, siamo, sì, su questo siamo d'accordo, che il Cristo è il centro, che Cristo è la fonte di ogni grazia, che tutta la grazia viene tramite da Cristo, che questo è il criterio del nostro essere cristiano, diciamo, sì, su questo siamo d'accordo, questo non fa problemi. Ma si ha dunque ridotto, in un certo senso, tutta la discussione della giustificazione a una formula generale sul quale siamo d'accordo, e forse che creava delle difficoltà nel 600, nel 500. Ma le abbiamo ridotto, e gli altri problemi abbiamo detto, quello della, questo non è più tanto importante, e quello sì, ma questo di lingue, e questo sì, c'è una difficoltà, ma rimarrà forse per sempre, ma non è più, no, non è perciò che saremo divisi. E dunque tutti i problemi sono, diciamolo, relativizzati, messo in relazione. E penso che dobbiamo farlo, ma non possiamo dimenticare tutto il resto. Dobbiamo farlo, ma è soltanto questo. Ed è una discussione largamente teologica e storica. Grazie, padre Verkroys. Io una sola piccola cosa, perché mi ha molto stuzzicato l'intervento di Don Pino Ruggeri. Quando dice il passato non è capace di produrre un consenso nuovo, io non entro nel merito del futuro né delle affermazioni o prospettive teologiche. Vorrei chiedere a me, insomma, e quindi chiedere anche a voi, se ci può invece servire lo studio del passato, e voglio dire anche a cosa mi serve allora il passato. Don Sartori e Don Luigi parlava di mentalità, e io voglio appunto riferirmi a quanto è la lezione o ci ha dato il Brodello in sostanza, cioè, e chiedo a voi, quindi come teologi, cioè può aiutarci il passato a comprendere la mentalità con cui oggi noi affrontiamo quella stessa realtà? E secondo, e qui mi rifaccio al Todorov, all'insegnamento che oggi ci dà questo storico veramente che si interessa anche di problemi sociologici, cioè il passato ci pone l'istanza di interrogarci come oggi affrontiamo quegli analoghi problemi di ieri, quelle stesse medesime situazioni. Mi pare anche che a questo vorrei che servisse anche la storia per la teologia, insomma. Allora la discussione per stasera è finita, l'ambito problematico si è ulteriormente aperto, domani cercheremo di ripercorrerne alcune tracce e di allargarlo ancora. Grazie a tutti.